A quasi 9 mesi dal crollo del Ponte Morandi a Genova, il 14 agosto dello scorso anno, che ricordiamolo ha provocato 43 morti e 14 feriti, la situazione rimane incerta da molteplici punti di vista. Anzitutto è incerta per quanto riguarda le operazioni di abbattimento dei monconi, comprensivi di pilastri e stralli. Lo scorso marzo tutto era pronto per l'abbattimento di 2 pilastri, quelli più lontani dalle case, che sovrastano capannoni industriali ormai abbandonati. Una rimozione che sarebbe dovuta avvenire attraverso dell'esplosivo che era già stato installato sui pilastri e tuttora è visibile, ma le operazioni sono state fermate in extremis perché qualcuno ha sollevato la questione dell'amianto. In realtà tutti sapevano che il ponte Morandi conteneva amianto perché era il materiale più in voga proprio negli anni 60, quando il ponte fu costruito, prima che fosse messo al bando questo materiale. Come sappiamo, l'amianto è pericolosissimo per la salute perché provoca il mesotelioma pleurico, un tumore dei polmoni che si sviluppa anche a distanza di decenni dall'inalazione di una fibra di amianto. Facendo saltare ciò che resta del ponte Morandi, si sarebbe liberata polvere dell'amianto anche a chilometri di distanza, esponendo quindi la popolazione a gravi rischi sanitari. La tecnica dell'esplosivo è stata fermata in extremis anche grazie a un esposto in procura presentato da uno dei comitati di cittadini presenti nella zona rossa, quella a ridosso del ponte. Se si percorrono i rioni, le strade più vicine ai monconi, infatti si possono vedere esposti dai balconi o affissi per le strade degli striscioni in cui si parla soprattutto di salute. La spiegazione sta proprio nel rischio amianto, che in questo momento è l'emergenza più sentita. Abbandonata l'idea dell'esplosivo, non restava che lo smontaggio meccanico, che però presenta 3 problemi. Il primo è che è più complicato perché stiamo parlando di piloni di decine di metri di altezza e non sempre facilmente raggiungibili con i mezzi adeguati. Il secondo problema è relativo ai costi: più complesse sono le operazioni e più i costi lievitano. Il terzo problema, quello forse più sentito dall'amministrazione e dalla politica, è relativo ai tempi. Lo smontaggio meccanico rallenterà i lavori di almeno 6 mesi, c'è chi dice un anno, e quindi è difficile che un nuovo ponte possa essere ultimato tra la fine del 2019 e la primavera del 2020, come era stato annunciato. L'incertezza però non riguarda solo i lavori, ma anche la vita di chi abita nei quartieri a ridosso del ponte. A San Pier d'Arena e Certosa, i 2 quartieri più prossimi al Moncone, molte serrande di attività commerciali restano chiuse. Al mercato di Certosa intanto continua la solidarietà messa in piedi dal laboratorio sociale occupato Buridda, che appunto, proprio per aiutare gli esercenti in difficoltà, ha messo in piedi un gruppo di acquisto solidale. Il problema degli sfollati è in un certo senso risolto perché gli edifici che si trovavano proprio sotto il ponte sono ormai vuoti e abbandonati, ma la questione non riguarda solo loro, perché comunque a 50 o 100 metri, quindi in una zona un po' più sicura, è pieno di palazzi popolari. Gli abitanti subiscono delle restrizioni. È vero che la zona rossa, quella invalicabile, è stata ridimensionata. Ad esempio via Fillac, che passa proprio sotto la parte di ponte rimasta in piedi, è stata riaperta. Però è comunque in uno stato di allerta, come mi ha spiegato un agente della polizia locale, tanto è vero che un tratto di circa 300 metri è presidiato tutto il giorno ed è vietato percorrerlo a piedi o in bicicletta, perché sarebbe troppo lento evacuare le persone che si spostano in questo modo. Come fanno allora le persone che non hanno mezzi a motore a percorrere quei 300 metri? Devono prendere l'autobus e fare una sola fermata, una tratta che, vista la situazione, è comunque gratuita. Infine, sempre per quanto riguarda i cittadini, i presidi permanenti dei comitati sono stati smantellati. Rimangono 2 gazebo da una parte e dall'altra del ponte, ma non sono più frequentati dai comitati, se non per qualche appuntamento eccezionale come un ricordo il 14 del mese o qualche assemblea quando c'è da discutere qualche novità.